Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Nella complessa e appassionata, per chi di queste cose si appassiona, vicenda politico-istituzionale che stiamo attraversando, io vorrei sottoporre nello spazio meridiano questo tipo di riflessione. Nasce da un titolo che ho letto oggi sui giornali, che riferisce alcune conversazioni private fatte tra Silvio Berlusconi e persone a lui vicine, da cui è emersa la parola parricidio. Avrebbe detto che i suoi danni si sta consumando un vero e proprio parricidio. Non entro in merito al riferimento reale, quanto questo parricidio sia stato realmente consumato, quanto anche una simulazione, una messa in scena di un parricidio possa poi essere funzionale a quei meccanismi che alimentano e fanno sì che la politica diventi appassionante, a volte come un gioco di carte fatto al tavolo fra astuti giocatori. Vorrei riflettere poi questa mattina quanto in realtà simbolicamente, da un punto di vista di riferimenti epici, di riferimenti sottili, si stia veramente consumando un parricidio e quanto il parricidio sia in realtà una operazione funzionale, necessaria, improrogabile nel cammino di ognuno di noi. Quanto nella vostra vita consumare un parricidio è stato fondamentale? Quanto voi vi siete sentiti in qualche maniera traditi, lasciati per strada quelli che reputavate vostri figli, figli reali, figli geneticamente generati o figli semplicemente in quanto vostri seguaci, persone che hanno seguito il vostro esempio? Sì, è importante fare questa riflessione a cui vi prego di contribuire subito chiamando all'800240024. Perché? Perché del parricidio abbiamo un'idea molto lontana da quello che è il suo significato archetipico, il significato legato appunto a quei simboli universali su cui la storia degli uomini si è sempre improntata. Di parricidio noi abbiamo un'idea molto moderna: si uccide il padre semplicemente perché il padre è la nostra fonte principale di guadagno e quindi è ora che a un certo punto il padre se ne vada in pensione, se ne vada, scompaia per passare a noi diciamo quello che è il frutto del reddito di tutta la sua vita. Esempio più fulminante di questo moderno maniera di concepire il parricidio è proprio Pietro Maso. Pietro Maso tornerà libero il prossimo 15 aprile dopo aver scontato 22 anni di carcere. L'ex ragazzo della Verona Bene a 20 anni uccise i genitori per impossessarsi dell'eredità. Era un episodio avvenuto nel 71 a Montecchia di Crosara, un ricco centro nel Veronese. Un gruppo di ragazzi, comandati spiritualmente dal loro leader Pietro Maso, massacra i genitori di Maso, bastonati in maniera cruenta, orrenda, un bagno di sangue, ci mettono 50 minuti per ammazzarli, semplicemente perché avevano bisogno dei soldi dei genitori, del gruzzoletto dei genitori. I genitori altro non erano che le galline da spennare, e quando le necessità di vita sociale di Maso e dei suoi amici diventano così impellenti e devono mettere le mani sul gruzzoletto ai genitori, per loro uccidere i genitori è una cosa totalmente normale. Questo è l'omicidio banalmente legato al profitto. Si compie un parricidio perché? Perché semplicemente ciò è comodo, ciò è utile. Pietro Maso, che oggi è uscito dal carcere, è stato giudicato non insano di mente, una persona normale come noi. Quindi in ognuno di noi esiste il germe del parricidio a fini di profitto. Quindi si può uccidere il padre in un momento particolare in cui è al centro di tutta l'attenzione e l'attesa rispetto alla fiducia al governo sul fatto che qualcuno comunque dovrà tradire un padre. Sarà necessario tradire un padre. Perché? Perché il padre a un certo punto, in un ordine naturale delle cose, secondo una logica e salutare composizione degli eventi, deve mettersi da parte. Beh, su questo noi esattamente un mese fa, e sembra quasi profetico, facemmo una trasmissione dove chiamammo come ospite lo psicanalista Massimo Recalcati, che è autore di un fortunato libro, Il complesso di Telemaco, per Feltrinelli, in cui riporta l'attenzione alla figura di Telemaco. Telemaco è il figlio che attende il padre che attende a portare giustizia. Ulisse non arriva mai a mettere giustizia nella casa di Telemaco, che è stata occupata dai nemici che vogliono insidiare la madre, vogliono impossessarsi dei beni del padre. E quindi sull'attesa di Telemaco, secondo Recalcati, è la nuova idea di un padre. Non è più un padre da uccidere, ma un padre da attendere perché riporti giustizia. Intanto bisogna dire una cosa di fondo, che il nostro tempo non è più il tempo del padre padrone, cioè del padre che ha l'ultima parola sul senso della vita e della morte, del bene, del male, giusto, dell'ingiusto. Quest'epoca è finita e secondo me non bisogna avere nostalgia alcuna, no, di questo tempo e di questa rappresentazione autoritaria, disciplinare, repressiva della paternità che il 68 ha contribuito a demolire. Noi viviamo in un tempo in cui appunto il padre che ritorna e che incontra Telemaco non è il grande eroe che ha sconfitto Troia, ma è un mendicante, appare come un padre mascherato, dunque come un padre, e questa è una immagine della paternità oggi, come un padre vulnerabile, come un padre indebolito. Guardate, la lettura di Recalcati, che è una sua analisi personale, opinabile se qualcuno vuole, però che presenta alcuni lati di interessante confronto con la realtà, dice che in realtà il padre vincente oggi è il padre che si mostra nella sua debolezza, è il padre che si maschera da mendicante addirittura per mostrare la sua difficile situazione e si offre, si fa riconoscere dal figlio, si mostra al figlio nel momento in cui sarà vendicatore di tutti i torti subiti dal figlio, proprio nella più debole e più mesta delle sue condizioni. In realtà il padre che vediamo oggi chiamarsi vittima di parricidio è un padre esattamente antitetico, è un padre che si maschera da eterno, un padre che si maschera da immarcescibile, è un padre che non si veste da mendicante ma mantiene sempre le spoglie esteriori di un suo splendore, e i figli sono ugualmente attenti a questo splendore fittizio quando lo splendore poi non è realmente rappresentato. Mi rendo conto che muoversi su esperienze personali rispetto a un modello di attualità e di metafora così diverso dalla vita quotidiana di ognuno è difficile, ma vi pregherei di chiamare 800240024 per portarmi un vostro punto di vista. Si sta consumando un grande parricidio? Secondo voi è un'azione salutare e necessaria a un certo punto che le nuove generazioni compiano un salto rispetto a quelle precedenti? Ma sentiamo ancora Recalcati, perché è interessante. Nello sviluppo normale c'è un tempo in cui la paternità deve assicurare la presenza, poi questo tempo si sostituisce ad un secondo in cui la paternità deve arretrare, cioè un buon padre deve saper tramontare e lasciare al figlio, diciamo, la responsabilità del proprio destino, del proprio fallimento, della propria realizzazione. Vi è mai capitato di arretrare nella vostra condizione dominante per fare spazio agli altri? Il vero problema in questo paese, molti dicono, ma è una versione parziale, che nessuno voglia arretrare e non si fa spazio ai giovani, non si fa spazio alle nuove generazioni. Ma quando si arretra? Si arretra quando ormai si è nelle condizioni di aver seminato, di aver lasciato dei segni tangibili della propria esperienza negli altri, o si arretra semplicemente per una questione anagrafica, perché bisogna arretrare, perché bisogna far spazio al nuovo, il patrimonio della propria esperienza, la propria esistenza non conta più? 800240024. Silvana De Mari, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Il problema, credo... Ferma, Silvana De Mari, in questo spazio nessuno ti conosce, e Silvana De Mari, ricordo, è una scrittrice di genere fantasy, una saggista, una psicoterapeuta, l'abbiamo chiamata spesso perché la sua attenzione al mondo della fantasy, quindi della riproduzione fantastica della realtà, ci dà sempre degli spunti di lettura molto interessanti. Prego, Silvana. Allora, credo che a Melog io posso presentarmi nel ruolo di tuttologo pressapochista. Come tuttologo pressapochista, peraltro laureato in medicina, ricordo il fatto che c'è un range, non è la legge o tutto nulla, e se è tutto sbagliato, se non c'è, è meglio. Il parricidio, come l'autorità paterna, sono come il colesterolo, l'eccesso uccide e la mancanza non è compatibile con la sopravvivenza. Il 68, anche come creazione, giusto o sbagliata che sia stata, è stato un parricidio eccessivo. Allora, la prima generazione che aveva sottoposto i propri figli alla situazione atroce di non combattere una guerra mondiale e non soffrire la fame è stata aggredita con una violenza eccessiva. Addirittura tutta la violenza che fino alle epoche precedenti era su un piano orizzontale, cioè i tedeschi detestavano gli italiani detestavano i francesi e così via, tutti detestavano gli ebrei, così non ci si sbagliava mai. cioè da un punto di vista di gruppo e detesto un altro gruppo, diventa verticale. L'odio tra figli e padri diventa di tipo etnico. Io ricordo una scena di Herbert Marcuse, che noi possiamo considerare il filosofo utopista padre della però della scusa storia. Silvana, tu hai parlato di mezzo parricidio. Cosa significa il mezzo parricidio? Il padre o si elimina fai parte praticamente di questo compromesso, di questo grande compromesso che stiamo vivendo adesso. Sì, c'è il parricidio, ma in fondo ci si fa l'occhiolino, in fondo può essere tutta una tattica, tutta una strategia, in fondo il padre ne esce sempre vincente, quindi non è un mezzo parricidio, è una simulazione di parricidio. Nel 68 non è stata una simulazione di parricidio, è stato un parricidio totale. Tutto quello che era stato fatto prima è stato ridicolizzato, nessun merito è stato riconosciuto alla civiltà precedente. Il risultato è che siamo rimasti orfani, che è una brutta situazione. Ma per questo oggi si stupisce, Berlusconi dice, su di me sta facendo un parricidio, perché è qualcosa che non appartiene più alla nostra contemporaneità, l'idea del parricidio. I padri, anzi, non rimanere il più possibile, perché i figli non si staccherebbero mai dalla casa madre. Al contrario, è la mancanza dei padri che causa la mancanza di sostrazione dei figli. Non c'è più il padre che stacca il bambino dalla madre. Ferma un attimo, Mirko, buongiorno, primo ascoltatore, 800240024. Buongiorno Gianluca, riguardo al parricidio io personalmente vivo un'esperienza che va su due binari, una è quella di padre, di un adolescente, e un'altra è quella di, io insegno teatro ai giovanissimi, a me piace molto l'idea che mia figlia quanto prima ti uccida. Possa, sì, mi uccida intellettualmente, nel metaforicamente, senso che, certo, chiaro. Sì, esatto, e lo stesso lo cerco nei miei allievi, nel senso che io sogno un domani molto vicino in cui questi ragazzi si approprieranno di quello che io gli ho trasmesso e gli sto trasmettendo, quindi amo molto questa Alberto, buongiorno, fermo Mirko è una persona che vive la contemporaneità e accetta il parricidio come salvifico momento di cambiamento. Alberto? Sì, pronti, ci sono. Allora? Io devo intervenire dicendo che sulla questione dell'arretrare, cioè di fermarsi e lasciare spazio, questo credo che avvenga soltanto nel momento in cui quello a cui teoricamente bisogna lasciare spazio è in grado di essere più incisivo. Fino ad allora è chi è in grado di dimostrare qualcosa in più, di fare delle operazioni migliori, che rimarrà lui sulla scena. Allora diciamo, i figli mosci lasciano la scusante ai padri che non arretrano mai, e mi sembra calzante moltissimo con l'attuale situazione istituzionale. Il padre dice: non posso fare un passo indietro perché non c'ho un figlio abbastanza gagliardo di prendere il mio posto di comando. Melog, cronache meridiane. Vi sto forzando e mi rendo conto che anche per voi è una fatica, però a ragionare in termini di metafora, ad usare la forza della visione più che, diciamo, il puntiglio del punto di vista. Quindi non mi interessa, le persone chiamano e mi parlano di pena di morte, di politici inquisiti, no, usciamo un attimo. Silvio Berlusconi, nella sua capacità comunque di riportare tutto su un piano metaforico, ha detto: sono vittima di un parricidio. E noi stiamo riflettendo sul fatto che il parricidio oggi è qualcosa che sembra non appartenere, perlomeno nel suo significato simbolico principale. Il padre viene ucciso perché il padre divoratore a un certo punto non permette al figlio di realizzarsi, oppure il padre viene ucciso per motivi molto più dolorosi, come nel caso di Edipo, che ci portiamo dentro tutti noi. Ma in realtà oggi il parricidio viene inteso come un fammi spazio, perché anch'io ho bisogno di vivere e non c'è posto per tutti e due. Anna, buongiorno. Buongiorno, senti, io volevo dire che parricidio secondo me è anche quando dei figli parcheggiano i genitori in ricoveri, in case di riposo, potendo fare invece altrimenti, cioè potendo avere una badante che può accudire a loro, dando un occhio anche loro, insomma interessandosi un po' di più. Poi questa mattina Pierangelo Buttafuoco nello spazio di Gianni Minoli ha detto, riferendosi all'attuale parricidio allucinato da Silvio Berlusconi, dice: ma in realtà non si tratta proprio di un parricidio, in realtà il rapporto Alfano-Berlusconi è un po' come il figlio che si prende cura del padre che vede vacillante, magari fa in modo che non si innamori della badante. Come vede anche nella sua lettura, che è una lettura giusta, mestamente buonista, c'è qualcosa. Oggi non è tanto occuparsi del padre, affidarlo a una bella badante, a una buona badante, una brava badante, ma anche curarsi che il padre non impazzisca e non faccia scempio del suo patrimonio attraverso la badante. Molto più complessa la vicenda. Massimo. Buongiorno, dottor Nicoletti. Oggi è stato creato quel neologismo femminismo, femminicidio. Sì, ma abbiamo già parlato, era la puntata dell'altro ieri. Comunque dica. Sì, no, ma non era quello. Ossia, oggi si sta creando un omicidio nel vero e proprio senso, non cruento, della figura dell'uomo. L'uomo purtroppo sta perdendo dei posti nella società, nel lavoro, eccetera, per questa dirompente avanzata delle donne, giustissimo. Ma se uno arretra vuol dire che è colpa sua. Sì, no, diciamo no, che lui che sia, diciamo, colpevole in parte, sì, è che lui si trova, l'uomo no, si è trovato improvvisamente inadeguato a certi cambiamenti della società. Questo è il senso dei tempi. Quindi obiettivamente ecco, c'è questo omicidio. Quindi è più facile fare un parricidio verso quest'uomo che è già debole. Obiettivamente quando è un po' una situazione maramaldesca. Maramaldesca è come pugnalare un uomo morto, ma esatto, lo riferisce sì. Anche all'attuale situazione istituzionale, il parricidio nei confronti di Silvio Berlusconi è come pugnalare un uomo morto? Beh, diciamo, quella è una situazione un po', ma come diceva Flaiano, si corre sempre a aiutare il vincitore, no? In soccorso del vincitore. Questo, diciamo, ormai è una politica che noi conosciamo da tanti anni. Sì, però fermiamoci, non inquiniamo sempre, non diluiamo nell'impugnare il luogo comune, quello che è il tema centrale. Vorrei aiutarvi, e visto che il tempo è poco che abbiamo a disposizione in questo nuovo spazio, vorrei tenere la barra dritta sulla situazione. Silvana De Mari è scrittrice di fantasy, oltre un insieme di altre cose. Come vedi, la paura poi dell'uomo che ha chiamato è quello che dice, ma sai, è l'avanzata delle donne, quasi che il parricidio è giustificato dalla caduta della virilità in senso alto, in senso eccelso. Insisto, nel 68 c'è stato un eccesso di parricidio. I padri sono stati accusati di una colpa non risolvibile, non aver creato la felicità nel mondo. Primo, bisogna affermare che la felicità nel mondo sia possibile. La afferma un tale che si chiama Jean-Jacques Rousseau, che evidentemente di come funzionava la preistoria non aveva nessuna idea. Quindi, e poi bisogna anche, c'è un altro punto, che bisogna stabilire cos'è la felicità, perché io preferisco fare il detenuto a Guantanamo che vivere nella comune hippie degli anni 60. Peraltro, una volta che si afferma questo, tutti sono colpevoli. Io mi ricordo fisicamente, perché ho 60 anni, li ho sentiti, i ragazzi che sfilavano in via Po urlando «vogliamo essere orfani». E questo vuol dire essere un parricidio. Dopo che però che ti sei diventato orfano, ti innamori del primo padre che passa, Mao Zedong, Pol Pot e così via, ci siamo innamorati dei mostri. Sul piano più povero... Sì, ma arriviamo, scusa, ti voglio portare anche te sull'attualità, perché è giusta la lettura che hai fatto, la sappiamo, la conosciamo. Parlare oggi di parricidio, un padre che dice sto subendo un parricidio, un padre che sì, aveva comunque, è l'esemplificazione simbolica di un paradiso di felicità, perché se vogliamo fare delle letture anche abbastanza superficiali, comunque rappresenta un uomo che rappresenta un mondo fatto di televisioni private, di paradisi, di vivere bene, di bellissime città, di bellissimi quartieri e via dicendo. E questa è la ragione, stiamo ripetendo esattamente un parricidio come era stato compiuto collettivamente negli anni 60. No, perché qui c'è semplicemente stato un abuso di termine, per questo non ne sto parlando, non c'è stato nessun parricidio. La sostituzione di un leader, peraltro molto carismatico, che è il padre di un determinato partito, a un certo punto non è un parricidio, è un'altra cosa. Il parricidio è quando viene contestata una figura più carismatica e più importante per noi, come il nostro vero padre. Non è che tutte le volte che viene sostituito un capo dobbiamo invocare il parricidio. Quindi io contesto il termine. Essendo usato in una situazione sbagliata, non può essere collegato al vero autentico parricidio del XX secolo, che è stato controbilanciato nella letteratura fantasy con il recupero dei padri. Sentiamo Filippo. Filippo, buongiorno. Lei è d'accordo con la De Mari, mi sembra di capire. Non è un parricidio. Nella politica non ci sono legami di sangue, non c'è un patto in giuramento. La politica è compromesso continuo, la politica è ripensamento, quindi è lecito a un certo punto che i figli spirituali di un leader politico gli facciano le scarpe. Ma io penso che nel caso di Berlusconi il suo problema sia un problema di tipologia di leadership. È un leader molto autarchico che non accetta, che ascolta i suoi consiglieri, quelli che lavorano con lui, però poi vuole sempre prendere lui tutte le decisioni senza condividerle. Dietro questo problema c'è un problema più che di parricidio, di psicologia, nel senso una mancanza di fiducia nei propri. È chiaro, Filippo, non si tratta di parricidio, questo abbiamo, siamo riusciti a mettere assieme in questi 20 minuti. Non parlate di parricidio, è tutt'altra cosa.